Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, controinformazione, letture, promozioni, musica, Radio Azione, frequenze, azione, Radio Azione, diretta, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. La fuga dalla metropoli doveva essere fatta nella massima sicurezza. Non vi era sera migliore del 31 dicembre per attuare il piano, perché si può approfittare del caos e del coprifuoco già da un'ora prima della mezzanotte. Ma c'è un problema, e non da poco visto il periodo. È pieno inverno e andare a rifugiarsi in montagna senza avere un posto dove ripararsi rende tutto molto duro. Per ora ci si può accontentare di qualche auto per passare almeno la prima notte, ma il giorno dopo si deve assolutamente cercare un giaciglio. I refrattari sembrano molto determinati nella scelta, anche perché l'alternativa sarebbe attendere passivamente l'arrivo dei Tarspok e di conseguenza Galeria. La ricerca della libertà non può allora avere come freno il freddo dell'inverno. Sono le 22 e le strade di Napoli da 013 sono oramai deserte. L'effetto nebbia creato dal fumo dei petardi sembra quasi essere risucchiato dai lampioni che diffondono una luce arancione. Per le strade si respira l'odore della polvere pirica mischiata a quella di qualche cassonetto della spazzatura che brucia. Ogni tanto nelle strade più larghe si vedono gruppetti di ragazzi che corrono per ripararsi sotto qualche portone, ma per il resto è una città fantasma. Nemmeno i Tarspok si vedono in giro, se non ai posti di blocco permanente e nei luoghi ritenuti più a rischio attacchi. Quelli di ronda nelle auto nemmeno ci pensano ad infilarsi nei quartieri della città in quelle ultime ore prima della mezzanotte, perché potrebbero essere oggetti di microvendette anonime dai balconi delle case. Intanto i refrattarios sono riuniti quasi all'uscita del tunnel. Ognuno di loro avrà un'ora a disposizione per tornare a casa propria e prendere quante più cose possibili per la sopravvivenza, ma soprattutto dovrà fare molta attenzione a non farsi notare mentre escono di casa con gli zaini. Alle 22.30 devono essere davanti al tunnel di nuovo per partire tutti insieme. Mark e Aki, due refrattarios, stanno percorrendo la stessa strada quando notano a pochi metri da loro un grande camper che parcheggia su un marciapiede in una zona tranquilla in cui vi sono solo uffici. Dal mezzo scendono un gruppetto di ragazzi, molto probabilmente stranieri, ubriachi e vogliosi di fare festa fino a tarda notte. I due refrattarios, senza nemmeno dirselo a voce ma guardandosi per un attimo negli occhi, arrivano a pensare la stessa cosa nello stesso momento: rubare il camper. Sembra un regalo del destino quel camper. È molto grande, ha una targa tedesca e potrebbe ospitare almeno una mezza dozzina di refrattarios durante le prime notti sul Vesuvio. Inoltre all'interno potrebbe esserci cose utili, lasciare dai ragazzi per la sopravvivenza. Mark e Aki, prima di rubare il camper, anche rischiando di non trovarlo più, decidono di recarsi come prima alle loro case e prendere quante più coperte e scorte di cibo possibili. I due approfittano anche del fatto che abitano in zona, così dopo nemmeno mezz'ora sono pronti davanti al camper. Mark copre le spalle ad Aki mentre questi tenta di aprire la portiera e due minuti dopo sono già nel furgone. Prima di collegare i cavi di accensione al camper, Aki fa un controllo per vedere se per caso siano state lasciate accese le luci, sia all'interno che quelle esterne, in modo di non dar troppo nell'occhio, almeno fino a quando non si svolta su una strada nuova. Nel camper i giovani tedeschi hanno lasciato di tutto, da viveri a computer ad altri effetti personali. Il camper è stato messo in moto e facendo una curva U si rigira per percorrere la strada inversa a quella dove si sono diretti i ragazzi. Sono le 23.20 ed il camper si ferma davanti all'uscita del tunnel con lo stupore di tutti i refrattarios che non si aspettavano una sorpresa così. I ribelli dispongono anche di 3 auto, anche queste rubate pochi giorni prima. Sono gli ultimi istanti in cui respirano l'aria malata della metropoli. Dopo aver caricato tutto il necessario sui mezzi, si dividono su ognuno di questi a gruppi di 3 o 4 e a fari spenti escono dal bosco iniziando il nuovo viaggio. È mezzanotte ed i refrattarius sono arrivati a destinazione. Da una specie di terrazza verde in mezzo alla natura del Vesuvio si godano, brindando alla faccia dei Tarspok, la vista su una 013 illuminata dai fuochi d'artificio che salutano l'anno nuovo. Great to be alive, isn't it? Great to be alive. Radiazione 10 febbraio 2013 dall'interno di una cameretta con tanto di aria viziata. A parte la diretta d'azione di questo nuovo lunedì, dove ci sarà, oltre alla controinformazione, anche soprattutto la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti e ovviamente la musica per spezzare un pochino le nostre voci che possono anche rompere il cazzo dopo un po'. Queste sì. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@dcc.org per chi vuole mandare mail, comunicati, scritti e giornali online, eventi, critiche, consigli sui libri da leggere il lunedì su Radiazione, oppure consigli su altre cose. Fate voi. radiazione@dcc.org. Invece per il blog, per il sito è radiazione.org, dove potete andarvi a leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete scaricarvi un bel po' di cose attraverso la sezione download, dove potete riascoltarvi le dirette d'azione attraverso i podcast. E basta, penso che potete ascoltare la radio, ovviamente c'è da quando è diventato sito su Radiazione, ci trovate anche il lettore per accendere la radio il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Questo è tutto per gli indirizzi. Ricordo che Radiazione ora trasmette sul server di anarchia.net, server messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo sempre da qui fino a quando vivrà Radiazione e anche dopo, ovviamente per la massima disponibilità che ha dato in tutto, sia per la radio che per il sito e per ospitarci sul suo server. Quindi, come dicevo, oggi la diretta d'azione è quella del lunedì con la controinformazione e soprattutto la lettura di Tortuga, Valerio Evangelisti, così che si continua la saga dei pirati iniziata con il libro Veracruz che abbiamo finito di leggere a dicembre, e a gennaio abbiamo iniziato questo nuovo Tortuga. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono The Neon Judgment con il brano Sister Sue, e poi dopo si torna subito con la lettura di Tortuga. Love your heart, it's not just a meme, and what I have feel is enough. What I want from you. sale psy, dzieci i bo musi żerwę mieszczy. Stara czoje, ale miejmy lucha. Stara sosu spity, miejmy feel, ha ha ha. I think it really made me feel how when you came, this is gonna give you a try. Stop the dancer, dancer, made me jump on over to the side. The dream, the dream, made me wanna lean on you. Let's get to the heart of the thing. Now baby, you can give me more than you bring. Now baby, now what you baby, who? Febbraio 2014, riprendiamo dall'aria viziata di una cameretta, iniziamo un viaggio ancora di nuovo nei mari, nel mare dei Caraibi del XVII secolo. Eravamo arrivati, se lo ricordate qualcuno di voi, ma spendiamo un minuto a riportarvi queste atmosfere. Siamo a bordo di uno dei più noti galeoni della fratellanza della filibusta, il Neptune, comandato dal comandante Lorenzio, un olandese oramai diventato apolide. Seguiamo Rogerio Dos Campos, un nuovo neofita della pirateria, perché arruolato di forza o non di forza dopo un abbordaggio del proprio galeone. Un ex gesuita che si è guadagnato la stima di ufficiali e di semplici marinai a bordo del Neptune, hanno fatto abbordaggi, hanno carenato il loro galeone e si sono apprestati a entrare nella rocca di Curaçao per cercare di vendere un po' di merce del bottino delle loro imprese. Sono arrivati a Curaçao e si sono però sorprendentemente ritrovati ad essere degli indesiderabili. Le mura robuste del forte di Curaçao rendevano inefficaci i colpi di cannone sparati in risposta dalla flotta pirata. Finì che Lorenzio, da uomo pratico, diede ordine alla flotta di ripiegare su Santa Barbara, un porticciolo vicino a Punda, la capitale dell'isola. Più che essere in collera, il capitano del Neptune appariva turbato. «Non hanno capito chi siamo», ripeteva. «A Curaçao siamo sempre stati bene accolti. Questi olandesi ci hanno scambiato per chissà chi». «Forse Francia e Olanda non sono più alleate», osservò Calois. «Noi che ne sappiamo?» «Gli inglesi del Seamaster ce l'avrebbero detto. No, si tratta di sicuro di un grande equivoco». In effetti a Santa Barbara furono accolti senza ostilità quando le loro scialuppe presero terra, ma si trattava di un borgo minuscolo popolato da schiavi rimasti invenduti sul mercato di Punda e da un numero esiguo di pescatori dalla pelle bianca oppure olivastra. Vivevano in capanne e casupole, confinanti con pendii quasi privi di alberi. C'era un'unica costruzione in pietra, ad un piano, la sede che pareva deserta della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali. Appena messo piede a terra, Lorenzio convocò Ravenò de Lussan e Rogerio. «Siete gli unici presentabili. Andrete subito per via di terra nella capitale. Una volta al cospetto del governatore cercherete di fargli capire che non abbiamo intenzioni ostili. Vogliamo comprare alberature per sostituire quelle danneggiate e vendere anche un po' di schiavi nel mercato dell'Asiento». De Lussan fece uno dei suoi risolini ironici che gli erano consueti. «Noi due e basta! Ah. Capitano De Graff, vi chiedo solo di recuperare i nostri corpi dalla forca e di dare loro cristiana sepoltura. Per me è indifferente, ma scommetto che il mio amico gesuita ci tiene». Rogerio era troppo spaventato al pensiero della missione che lo aspettava per rispondere e quindi restò muto. Lorenzio gettò indietro il cappello piumato. «Non ho detto che sarete soli. Mando con voi 100, anzi 200 uomini. Certo, All'ingresso in città saranno costretti a consegnare le armi, tuttavia una forza simile sconsiglierebbe qualsiasi aggressione. Ma ci faranno entrare, obiettò Rogerio che aveva ripreso fiato. Ripeto che si è trattato di un fraintendimento, rispose Lorenzio con timbro acuto. Francia e Olanda sono alleate da decenni, e poi cosa vogliamo? Commerciare un poco, acquistare alberature e vendere qualche schiavo nella città che da questa parte del mondo ne fa più commercio. Una specie di Siviglia delle Indie occidentali. Due ore dopo, la sera calante, De Luzzano e Rogerio erano ai piedi della grande porta di pietra che, intagliata nelle mura, dava accesso ai quartieri periferici di Ponda. Li seguiva una mesnada di uomini per metà, con dispetto di Rogerio, reclutati tra l'equipaggio del Conqueror, adesso al comando di Pierre Bord, un secondo ufficiale del mio team promosso capitano. Il portoghese si chiedeva cosa mai servisse la presentabilità sua e del chirurgo se dovevano essere scortati da una simile marmaglia. Le guardie olandesi si allarmarono subito e puntarono i lunghi moschetti. De Lussanzi fece avanti sorridenti. «Non temete, amici, siamo servitori della Francia, buona amica dell'Olanda. Chiediamo un incontro con il vostro governatore, non abbiamo alcuna intenzione offensiva». E per dimostrare le proprie buone intenzioni si rivolse alla ciurma. «Ragazzi, consegnate le armi, questi bravi giovani le terranno in deposito finché non avremo completato la nostra missione». Aveva parlato in spagnolo. Forse molti olandesi non intendevano la lingua perché rimasero allerta. Gli ufficiali invece si distesero un poco. «Devo chiedere istruzioni», disse un graduato anziano. «Aspettatemi qui». «Ho tutto il tempo che volete», rispose De Lussan con un grande inchino e un volteggio del cappello piumato. «Se vedete il governatore, porgetegli i miei deferenti saluti. E voi chi sareste?» «Io sono il signor Amenot de Lussan, nobile scienziato, già medico personale di Luigi Re XIV di Francia. Colui che mi è accanto è padre Rogerio dos Campos, un religioso venuto dal Portogallo, altro paese che, con l'Olanda, intrattiene da sempre rapporti di ottima amicizia». Rogerio ammirò la disinvoltura del chirurgo nel mentire sui loro titoli. Dubitava, però, che il militare vi avrebbe creduto e si preparò a un rifiuto o peggio all'arresto. Consegnò comunque nelle mani di un soldato la sciabola, tre pistole, una daga e un pugnale. E gli uomini di malavoglia lo imitarono. Le guardie olandesi contemplarono stupiti l'arsenale che si ammonticchiava davanti a loro. L'attesa durò un'ora circa e fu meno lunga del previsto. L'ufficiale anziano tornò e parve il primo a essere meravigliato della risposta che era incaricato di dare. «Il signor governatore riceverà il signor De Lussan, il padre qui presente, domattina. Autorizza voi a vostro seguito a trascorrere la notte in città, sempre che abbiate soldi per pagare locande, fienili o altri alloggi». «Denaro ne abbiamo», rispose il chirurgo. Era vero, dopo la spartizione avvenuta alla isla dello Spinos. «Ma vi diffida dal provocare incidente, rissi o schiamazzi, non sarebbero tollerati». De Lussan allargò le braccia in segno di innocenza. «E quali danni potremmo mai fare? Non siamo armati, abbiamo solo voglia di dormire». va bene, basta, adesso passate». Il branco dei pirati varcò la soglia delle mura di Punda. Era il crepuscolo, ma nella semioscurità, accanto alle capanne, si notava un edificio a due piani in cotto, con balaustre di ferro battuto alle terrazze, porticati e facciate dipinte in vari colori. La maggior parte aveva un tetto ad angolo acuto, di tegole o più raramente di paglia. Per le strade camminavano soprattutto negri, carichi di ceste o di altri fardelli. Se si trattava di bianchi, spesso avevano barbe lunghe, indossavano palandrane nere e portavano sul capo un cappello tondo o uno zucchotto, molto più piccolo del loro cranio. Rogerio ne aveva già visti di simili a Siviglia. E fu De Lussan che procedeva in testa a svelare il perché di quel curioso modo di vestire. «Ah, qui è pieno di giudei», sussurrò il portoghese. «Lasciano l'Europa per sfuggire all'Inquisizione e arrivano a Curaçao. L'isola ne è colma. Non chiedetemi il motivo». Alla rivelazione Rogerio reagì con spontanea indignazione. «Volete dirmi che in questa città sedicenti cristiani e gli ebrei fanno il bello e il cattivo tempo, che possono vivere tranquilli? La corona olandese è molto tollerante, purché chi le causa problemi sia lontano dai suoi confini». De Lussan strizzò l'occhio e ridacchiò. «Ebbene, non c'è tratto di terra più adatto di questo. Sappiate che i circoncisi qui dominano il mercato e vendono di tutto, inclusi...» Fu interrotto da uno schiamazzo. Frederick Bell, un marinaio del Conquirer che Rogelio conosceva di vista, aveva strappato lo zuccotto dalla testa di uno dei passanti e se l'era posto sul capo. Il derubato protestava e sferrava pugni senza efficacia, non più contundenti di quelli di un bambino. De Lustan si fece largo tra la calca che attorniava gli antagonisti e scartò con uno spintone Michel Truin che cercava di intervenire. Con l'avambraccio circondò la gola di Belle e strinse quando poteva. L'altro allargò le braccia. «Restituisce al signore il suo zuccotto e chiedegli scusa!» Bell si tolse il berretto e lo restituì al legittimo proprietario. «Fatto, ansimò, lasciatemi andare!» «Credi che sia così semplice?» De Lussan serrò la piega dell'avambraccio. «Hai violato l'ordine di non procurare problemi. Non meriti torture. Però la morte sì!» Il chirurgo accentuò la stretta finché le ossa del collo scricchiolarono e il corpo di Bell diventò molle. Lo lasciò cadere e si asciugò la fronte dal sudore. Faceva un caldo maledetto, malgrado l'ora tarda. «È solo svenuto. Per ora gli condono la pena. Ma chiunque abbia intenzione di provocare risse e attirare l'attenzione su di noi sappia che la prossima volta io non sarò così generoso.» Era il linguaggio giusto da usare con i pirati, che arretrarono di qualche passo. Rogelio provò ammirazione per De Lussan e al tempo stesso timore. Era evidente che era più che pronto a uccidere Bell. Se vi aveva rinunciato, era stato per pure ragione di opportunità, anzi. Sul viso del chirurgo aleggiava un certo rammarico per l'occasione perduta. «Tutti i fratelli della costa erano in fondo così», pensò Rogerio, «capaci di spingersi ogni oltre il limite morale e di commettere qualsiasi nefandezza, totalmente insensibile alla pietà e al dolore proprio e altrui. La differenza tra De Lussan e gli altri filibustieri era che il medico teorizzava l'ineluttabilità di quei comportamenti, mentre gli altri si limitavano a seguire gli istinti. Rogerio stesso si rendeva conto che stava diventando come loro. All'inizio non rideva davanti agli spettacoli di morte, aveva il vomito ogni volta che udiva narrare un episodio di crudeltà. Adesso si era quasi assuefatto e i racconti atroci così frequenti fra i pirati non lo turbavano più. Che avesse ragione De Lussan quando sosteneva che in ogni uomo sonnecchiava una belva. Decise di non pensarci. Finché era nella filibusta conveniva vivere alla giornata e preoccuparsi solo del proprio tornaconto, come facevano d'altra parte tutti quanti. De Lussan si fermò sotto l'insegna di una locanda recante una scritta incomprensibile e guardò i suoi compagni, tacitati dalla paura che lui ispirava. Due di essi sorreggevano Belle, che ancora boccheggiava e si teneva la gola rossastra. «Io mi fermo qua con il gesuita, Truin e qualche altro. Non c'è di sicuro posto per tutti voi. Voi sparagetevi per la città. Sembra piena di taverne, bevete, giocate, godetevi qualche bella donna, ma non provocate incidenti. Se so di qualche tafferuglio verrò a cercare i colpevoli e li sgozzerò con le mie mani. È una promessa e io le promesse le mantengo.» Non vi furono obiezioni. De Lussan soddisfatto annuì e aggiunse: «Domani ci si trova davanti al palazzo del governatore. Non so dove diavolo sia, ma da qualche parte sarà. Informatevi.» Nella locanda entrarono in una decina. Gli avventori erano tre in tutto, ben vestiti, e stavano giocando a dadi al lume di candela. Le prostitute erano molto più numerose e stavano raggruppate vicino al bancone con aria annoiata. C'era odore di fritto, di spezie e di vino andato a male. Il focolare era spento. Due gatti si contendevano sul pavimento un osso con un brandello di carne. Fu chiaro che il padrone non apprezzò quell'irruzione. Era un vecchio con la barba lunga, dagli occhi svegli e dal colorito olivastro. In testa aveva una sorta di papalina. Uscì subito da dietro il banco e iniziò a vociferare. De Lussan si rivolse al pirata olandese di nome Hans van der Laan. «Che accidenti sta dicendo?» «Dice che sta per chiudere e che non ha più niente da servirci», tradusse l'interpellato. Poi aggiunse: «È evidente che non ci vuole nel suo locale.» «Bene, ci porti subito da bere e da mangiare. Aggiunga delle candele e prepari delle stanze, altrimenti bruciamo la baracca con lui dentro e le sue puttane di contorno.» De Lussan marciò poi verso i giocatori di dadi, che salutò con un inchino compito. «Miei signori», disse, «avete un minuto per portare i vostri onorevoli culi fuori di qui o non rispondo delle vostre vite.» «Devo tradurre?» chiese Hans. «No, non occorre.» I tre giocatori avevano abbandonato i dadi e stavano correndo in strada. E questi erano 16 Volt con il brano Don't Pray, dopo la prima lettura per oggi di Tortuga di Valerio Evangelisti. Ora si passa, come di consueto, alla controinformazione con una notizia che arriva dal Cile. Nell'ultima diretta, quella di venerdì, avevamo dato una notizia che era stata presa dai siti sudamericani. C'è una smentita, l'ennesima nell'ultimo periodo, praticamente riguarda la smentita della notizia riguardo al pestaggio subito da Carlos Gutiérrez Quirileo. Leggiamo il testo. Compagni, diffondiamo le seguenti informazioni in modo da evitare confusioni e malintesi, in particolare per quanto riguarda la situazione che ha riguardato martedì scorso il compagno Carlos Gutiérrez Quirileo. Infatti, nel pomeriggio di quel giorno, quando il compagno già non poteva ricevere visite dal suo avvocato o parenti e amici, abbiamo ricevuto la notizia che sarebbe stato picchiato dalla gendarmeria e che sarebbe in una cella di punizione. Era tutto quello che si sapeva in quel momento e, anzi, la preoccupazione, l'incertezza e la rabbia ci hanno preso. Mercoledì scorso, però, abbiamo scoperto che il compagno in realtà è stato coinvolto in un problema all'interno della sezione di massima sicurezza quando ha cercato di intervenire contro l'assalto violento dei secondini contro i due prigionieri comuni detenuti nello stesso braccio. Il pestaggio contro tali prigionieri avvenne, incluso il fatto che uno di loro ha subito la perdita della vista a causa delle percosse da parte delle guardie, ma il compagno Carlos non fu picchiato dal personale della gendarmeria incaricati del dubbioso procedimento, al di là del fatto proprio di intervenire in una lotta. Stiamo enfatici sottolineando che anche quando il compagno è stato trasferito in una cella di punizione per non essere rimasto impassibile di fronte alla vigliacca aggressione della gendarmeria contro altri prigionieri, egli non fu vittima di un brutale pestaggio, né tantomeno il problema è stato direttamente con lui. Siamo in attesa di quello che sarà la punizione notificata, nel senso che durerà più giorni o sarà ritrasferito alla sua cella a regime normale. Pertanto smentiamo categoricamente la notizia del passaggio a Carlos apparsa su alcuni mezzi di controinformazione. Come il vostro principale interesse a chiarire la situazione riguardo al compagno Carlos, trasmettendo tranquillità e rispetto, scriviamo anche queste righe per sottolineare ancora una volta la necessità di essere responsabili con le informazioni diffuse per quanto riguardano tutti i compagni detenuti, perché non possiamo dimenticare che ci sono anche le loro famiglie, amici, compagni e vicini che si prendono cura quotidianamente della situazione di chi vive rinchiuso, agendo e reagendo di conseguenza. Tutto l'articolo pubblicato su Radiazione, questo testo ho appena letto, ho messo una nota, più che altro è la seconda volta che capita nel giro di un mese che arriva una notizia dal Sud America e poi viene smentita e poi vengono presi di mira chi fa controinformazione. Questo non sarà ovviamente il caso mio, perché io l'ho presa dai siti sudamericani, quindi mi sa che i compagni che hanno scritto dalle testo ce l'avevano in particolar modo con i compagni sudamericani. Però la prossima volta un giro di mail fa bene rispetto a quello che dice qualcun altro, che i giri di mail non vanno bene. Un giro di mail per avvisare che forse è accaduto qualcosa e da non pubblicare fino a quando non c'è una smentita o una conferma. Questo è tutto, almeno la prossima volta si evita di pubblicare cazzate da parte di tutti, loro e pure io, perché poi di conseguenza io le leggo sugli altri siti e le prendo per buono. Quando è pubblicata su 1, 2, 3, 4 siti, uno la notizia la prende per buona, quindi chi ne sa di più, la prossima volta subito una smentita non fa male. E questa era per quanto riguarda la notizia di controinfo, la prima notizia di controinformazione per oggi. Ora ci ascoltiamo un brano di The Modest, brano Gone Dead, e poi dopo si ritorna con la lettura del libro di Valerio Evangelisti, Tortuga. Back in the back of the hurricane, touching all Rogerio dos Campos attese di aver bevuto 2 coppe di un vino zuccheroso e molto alcolico, fortemente inebriante, prima di dire a De Lussan che gli sedeva di fronte. Ci hanno assegnato 200 dementi capaci di combinare ogni specie di guaio. Secondo lei è stata una scelta? Il chirurgo piegò gli angoli della bocca e aprì un poco le labbra sottili. Ovviamente sì. Lorenzio ci ha affidato la parte sacrificabile dei suoi equipaggi, quella che gli è inutile o che detesta. Se le cose volgessero al peggio gli resterebbero i marinai, quelli migliori. E vale anche per noi. Rogerio cercò le parole. Voglio dire, ci considera schiuma come questi barbari. De Lussan scosse il capo. No, a nostro riguardo ha detto la verità. Siamo tra i pochi presentabili e in grado di apparire di fronte a un governatore. Ciò non vale per la scorta. Nel peggiore dei casi Lorenzio perderebbe 2 uomini decenti e un bel po' di canaglie. E gli strizzò l'occhio. Il capitano De Graff è un furbone. Valuta tutto, progetta tutto. Sta a noi uscire vivi da Curaçao. Lui si tiene al sicuro, pronto a salpare come un dio lontano. Ci concede il libero arbitrio. Gli è comodo. Le ultime parole in Europa avrebbero condannato il chirurgo al rogo o ad una detenzione interminabile, quasi peggiore della morte tra le fiamme. Ma Rogerio non vi fece troppo caso. Osservava preoccupato i comportamenti peccaminosi agli altri tavoli in cui si erano sparpagliati i pirati. Gli uomini gridavano oscenità e al primo boccale di vino avevano cominciato ad agire. Le prostitute al banco erano bruttissime, obese, volgari, dalla pelle e dal viso enfiata per l'eccesso di belletti. Parevano incapaci di eccitare chi che sia, del resto erano in maggioranza negre, forse schiave del locandiere o dalla carnagione scurissima. Solo 4 di esse avevano colorito pallido, capelli fulvi, occhi cerchiati di rosso e abbondanza di lentiggini. I corpidi erano segaligni. Belli o brutte che fossero, fin dal primo giro di vino i pirati si gettarono su di loro, le trassero di forza al tavolo e cominciarono a spogliarle. Le donne strillarono, ma questo, nella maggior parte della maggioranza dei casi, sembrava far parte del copione. Tra le dentelle strappate apparvero mammelle sovrabbondanti e nere, oppure seni pallidi dal capezzolo rosso vivo. Ai pirati pareva piacere tutto, succhiavano come neonati e intanto insinuavano le mani tra le gambe delle loro concubine di una notte. Queste dimostravano o simulavano piacere. Disgustato, Rogerio esplose all'indirizzo di De Lussan. «Voi potete fermare l'orgia, perché non lo fate?» Il chirurgo non fu turbato dalla domanda, alzò le spalle. «Preferite che continuino a tormentare i mozzi? Lasciate che le bestie si sfoghino, per un po' risparmieranno i ragazzini di bordo», e sorrise con malizia. «Credo che la Chiesa condanni con maggior veemenza la sodomia che la fornicazione. Dico bene?» Rogerio decise di ignorare ciò che avveniva nella sala e il baccano montante. Nel frattempo il locandiere, a cui tremavano mani e ginocchia, aveva servito i cibi. Si trattava di dentice arrostito, verdure varie, frutta. Se i vegetali erano mangiabili, il pesce, riscaldato in fretta, aveva un sapore disgustoso e si sbrindellava sotto il coltello. Rogerio, tuttavia, si finse immerso nel pasto per dimenticare l'ambiente. Non voleva nemmeno conversare con De Lussan. Per evitarlo chiese a Hans, seduto allo stesso tavolo: «Qual è il tuo nome completo?» «Hans van der Laan, gesuita». «Olandese, vero?» «In realtà sono fiammingo, ma nato al confine». Il marinaio era sui 25 anni, di corporatura muscolosa, con occhi e capelli così chiari da apparire slavati. Dietro l'espressione franca era percettibile in lui una personalità tutta diversa che Rogerio stentava ad afferrare e a definire feroce, come quella di tanti pirati, ma al tempo stesso contorta e sfuggente. Il portoghese pensò alla propria, prima di allontanare il pensiero. Lui non era crudele, l'altro sì, in comune con lui aveva solo l'ambiguità, e ciò li rendeva amici naturali. L'intervento di De Lussan fu provvidenziale nel bloccare quel veloce flusso di considerazioni. «Hans, ti piace il pesce che stai mangiando? È ottimo, non è vero?» L'altro non osò contraddire l'opinione del chirurgo che, come tutti quanti, temeva. Oh sì, è eccellente. E allora prendi anche il mio. Delussan vuotò la scodella in quella del giovane. Ti raccomando di mangiare anche le lische come fanno i buon gustai. Sono la parte migliore, non mi credi? Oh sì, vi credo. E allora mangia un po' di spine, ecco così. E adesso la coda. Ci sono pezzenti che la scartano, ma tu no. Non è vero. Oh no no. Hans aveva le lacrime agli occhi per il dolore alla lingua e al palato. Soddisfatto, Delussan si alzò in piedi e prese una bottiglia dal tavolo. Fece un cenno a Rogerio. Andiamo a dormire, gesuita, qui non c'è verso di mangiare qualcosa di decente, solo pastone per animali. Vi porto da bere in camera e vi consiglio di fare come me. Rogerio si guardò bene dal prendere una bottiglia, evitò anche di guardare, se non di scorcio, ciò che stava avvenendo nella taverna. Donne, ormai completamente nude, erano chine sugli inguini dei pirati, altre li cavalcavano sorreggendosi alle loro ginocchia o alle spalle, a seconda della posizione. Le grida avevano ceduto il posto ai lamenti e ai gemiti di piacere. Il portoghese fu costretto a schivare l'assedio di alcune prostitute rimaste senza clienti perché troppo brutto butterate dal vaiolo. E intanto Delussano ordinava al locandiere: «Dacci le chiavi di due camere, per me e per il mio amico, più un paio di candele. Gli altri si ammasseranno in stanze comuni come si usa in mare, ma soprattutto non voglio rumori molesti, intesi? Se ne odo, scendo e ti taglio il collo». L'oste, forse, non intese ogni parola ma ne intuì il senso. Fu lesto ad accendere un paio di bugie. Mentre raggiungeva la scala di legno che portava al piano superiore, il chirurgo strappò per i capelli una negra graziosa che un pirata stava prenetando sdraiato su una panca e la trascinò via. «Tu vieni con me, gesuita, ne vuoi un'altra bella come questa?» «No, grazie», balbettò Rogerio, «io ho sonno». Il pirata, rimasto senza amante, ricoprì il senso del pudore, si riparò con le mani alla meglio, il pene ancora eretto e arrossato sulla punta. «Dottore, ma voi non potete fare così», Delussan gli rivolse il più diabolico dei sorrisi. «Sì che posso, non l'hai ancora capito, scemo. Io posso tutto, se l'avversario è più debole. Diventa forte e avrai la tua rivincita», e diede una forte sculacciata sul sedere della negretta ferma alla base delle scale. «Avanti, bella, qui ci si perde in chiacchiere. È ora di passare ai fatti». Lasciato solo con una candela e una chiave davanti alla sua porta, Rogerio scoprì un cubicolo lungo e stretto, occupato quasi per intero da un pagliericcio montato su cassettoni. Vari scarafaggi si diedero alla fuga, disturbati dai suoi piedi o dalla luce. Le coperte indubbiamente pullulavano di parassiti. Per fortuna faceva ancora caldo, sebbene fosse scesa la notte. Posato il coltello che teneva nascosto nelle calze, si sdraiò vestito sul giaciglio e cercò il sonno. Il suo riposo fu disturbato dal baccano che proveniva dal piano inferiore. Era presumibile che, consumata l'orgia, i pirati fossero tornati al vino. Urlavano come ossessi, battevano il ritmo con i piedi. Il brano ripetuto di continuo era La Bamba, cantato in ritmo variabile, ora lentissimo, ora frenetico. Ciò si prolungò fino al mattino, quando i raggi del sole filtrarono dalle imposte. Rogerio si lavò la faccia in un catino, rassettò la veste lunga fino alle ginocchia, ripose il coltello nei calzettoni e spuntò i baffi troppo aggrovigliati. Messo il cappello, si affacciò al pianerottolo. Proprio in quel momento, dalla stanza occupata da Delussan, usciva la ragazza che il chirurgo si era portato a letto. Piangeva, era seminuda. Piaghe ancora sanguinanti le rigavano la schiena, aveva lividi dappertutto. Delussan mise fuori la testa, aveva già alzato una parrucca. «Siete pronto, no? Si va dal governatore. Ma non aspettiamo gli uomini?» chiese Rogerio. «E chi mai ci riuscirebbe a destare quei pelandroni dopo una notte di bisbocce? Andremo io e voi, sarò pronto in un minuto». Pochi istanti dopo, i due scendevano assieme la scala di legno che dalle camere portava al salone della locanda. Rogerio osservò: «La donna che ha dormito con voi sembrava sanguinare e stare molto male». Delussan alzò un sopracciglio. «E perché la chiamate donna? Era una femmina negra, probabilmente una ex schiava. Alle creature così piace soffrire, un po' come a certi asini. Sono tanto abituate alle bastonate che, se il nuovo padrone non le percuote un poco, sono scontente e si ammalano. Però vi capisco. Voi non avete mai posseduto né schiavi né bestie. Era Verio. E Rogerio rimase taciturno, pensò solo che se De Lussan, Pepe o chiunque altro avesse trattato in quel modo la prigioniera del gavone di prua a lui cara, lo avrebbe ucciso. Piano piano, nell'averla sempre in mente, aveva iniziato a considerarla una sua proprietà. Nessun romanticismo, o almeno così credeva. Non si ama una negra, la si possiede. Ma provava un lancinante desiderio di rivederla. Il chirurgo versò al locandiere che borbottava il prezzo delle camere e una lauta mancia. Lo tacitò. Nelle strade già sorriscaldate, benché fosse mattina, furono accolti da sguardi ostili. I passanti, uomini di fatica con gerle pesantissime, donne della pelle d'ebano che miracolosamente tenevano sul capo vasi o addirittura outri, i sempiterni ebrei dalla barba lunga con zuccotto papalina, non facevano nulla per dissimulare la loro inimicizia. Un branco di mocciosi completamente nudi cominciò a lanciare pietre senza che nessun adulto lo fermasse. «Fate finta di nulla», disse De Lussan. «Camminate con fierezza, tra un attimo questi cani avranno il loro osso». «Quale osso?» chiese Rogerio preoccupato. I sassi cadevano sempre più fitti sulla strada di terra battuta alle loro spalle. La mira era incerta, però stava migliorando. De Lussan non rispose e con gesto distratto fece cadere sulla strada alcuni scudi spagnoli. Si udì uno schiamazzo. Uomini, donne e bambini corsero a raccogliere il denaro, accapigliandosi. Il lancio di pietre cessò. «Vedete, gesuita», e il chirurgo fece l'occhiolino, «giudicate i comportamenti umani come se fossero prettamente animali, avete sempre la soluzione giusta». I due non furono più disturbati. Attraversarono strade via via più larghe, fiancheggiate da case dai colori vivi, azzurre, rosse, gialle, bianche. Arrivarono poi in una piazza con quella che pareva la cattedrale, dove, carrozze in sosta, erano in attesa di improbabili clienti. Non c'era traccia dei loro compagni. Il palazzo del governatore non si trovava lì. Dove fosse lo indicò un passante che non intendeva né il francese né lo spagnolo, ma il portoghese sì. E additò un edificio pretenzioso sulla cima di una collinetta nuda quanto il resto dell'isola. De Lussan emise un sospiro. «Ci toccherà salire!» «Siete i pirati?» domandò l'interlocutore, un giovane ebreo con due treccine che gli uscivano dal cappello tondo molto sudato sotto la barba. «Beh, se volete chiamarci così...» «Beh, se fossi in voi non andrei, il governatore ha ordinato di ricacciarvi in mare. Sono passati i banditori un'ora fa. In una notte avete commesso più violenze di quelle che patisce tutta Curaçao in un anno. Andate a palazzo e sarete impiccati». De Lussan approfittò della loquacità dell'ebreo. «Il governatore è a casa sua. Non credo, dovrebbe assistere alla vendita degli schiavi nell'Asiento». Il chirurgo guardò Rogerio. «Andiamo all'Asiento, non è vero?» Il portoghese abbassò gli occhi. «Decidete voi, avete il comando. Beh, e allora andiamo». Like I take a chance. I can't expect them to understand. There's no time wasted if lies are told. You know they try to hold you. You know they try to calm you, calm you, calm you, calm you. When nothing can calm you, they try to throw me a line again, throw me a line again. They try to throw me a line again, throw me a line again. Happens again like you never planned it. You're talking and talking and talking as fast as you can. Baby comes all in, feel yourself falling again. It happens in moonlight in the morning when you're barely awake. Till she holds your heart like she holds your hand. You can't expect me to understand. There's no time wasted if lies are told. You know that she can't hold you now. You know that she can't calm you, calm you, calm you, calm you. When nothing can calm you, baby, would throw me a line again, throw me a line again. Baby, would throw me a line again, throw me a line again. Questi erano The Apartments con il brano Help. Ora si ritorna alla controinformazione con una traduzione che ci è arrivata poco prima della diretta, una traduzione che ci ha fatto la compagna che faceva la diretta qui a redazione tra ottobre e dicembre, quella definita la badante rumena, che si approfitta sempre per salutarla. Allora, si va in Grecia con questa traduzione. C'è un testo in risposta alle perquisizioni delle case dei compagni di Atene e Salonicco. Qui sotto riportiamo il testo scritto dall'Assemblea Anarchica per il collegamento delle lotte nella società carceraria Sasta a Salonicco riguardo le precedenti perquisizioni nell'ambito dell'antiterroristica operazione Atenaglia scatenata dalla polizia greca contro le individualità anarchiche antiautoritarie del 21 gennaio 2014. Ultimamente nella città di Salonicco e Atene gli sbirri dell'unità antiterroristica e la sicurezza dello Stato hanno invaso le case dei combattenti e anche le abitazioni dei loro amici, basandosi su una presunta anonima denuncia di armi ed esplosivi, mentre loro stessi dichiarano in TV che questa operazione fa parte delle indagini per la cattura di Christodoulos Xiros, membro dell'organizzazione rivoluzionaria 17 novembre, condannato e fuggito recentemente durante un permesso. Corri, corri! Queste perquisizioni tendono a diventare un altro fenomeno ordinario. Solo nell'ultimo mese sono state perquisite ben 60 abitazioni, con un vero e proprio residual della polizia greca. Gli sbirri incappucciati occupano i nostri spazi personali, si aggirano per i nostri quartieri e arrestano i nostri compagni, portando avanti una super operazione antiterroristica, come già tante volte prima. Questa operazione non può essere vista come un'azione isolata che coinvolge solo le persone dell'ambito anarchico. Abbiamo già visto che simili manovre sono state testate un anno fa, anche questa su larga scala, con le perquisizioni delle abitazioni degli abitanti della penisola calcidica, Grecia del Nord, che si oppongono alle miniere d'oro. Anche quella volta lo scopo dello Stato consisteva nel disarmare un riflesso sociale e fermare l'azione all'interno di questa lotta. Questa pratica specifica può essere vista solo come una dimostrazione della forza da parte del potere, che mira a intimidire e a terrorizzare tutti quelli che resistono, che sono contro il potere, che scelgono di non essere coinvolti in un regime di schiavitù che le autorità vogliono imporci. Una pratica attigua al resto dei piani repressivi dello Stato, istituire la prigione di massima sicurezza per i rivoluzionari, abolire permessi di uscita e inasprire le conseguenze legali per i combattenti, conducendo una guerra chimica durante le proteste, scatenando i pogrom contro gli immigrati, sgomberando gli spazi occupati, eccetera, eccetera. questa spettacolare operazione repressiva è un'offensiva, questa volta contro gli anarchici, che vuole servire da esempio a tutti quelli che resistano allo Stato e ai suoi meccanismi, ma anche da avvertimento a chiunque intenda opporsi ai suoi dettati. In un momento in cui la nostra vita quotidiana viene strangolata da continue scadenze nei posti di lavoro, nelle scuole, nelle università, nelle reste degli autobus, dalle quote nei pubblici servizi ai supermercati e sottomessa ai desideri dei dominatori, noi non possiamo chiudere gli occhi. In un momento in cui la nostra vita quotidiana consuma la paura dei notiziari della sera, nutrendosi di pubblicità e psicofarmaci, socializzando online attraverso i social media, confinata nelle gabbie concrete, considerarsi liberi diventa allarmante. Come altrettanto preoccupante abituarsi alle catene che indossiamo e rimanere passivi, ingoiando percezioni di purezza sociale che loro presentano senza nemmeno masticarle. In un nostro momento personale, quando la faccia della democrazia è chiara e più che mai, anche la necessità della battaglia contro la democrazia diventa chiara. La necessità di agire e organizzarsi, tenendosi a distanza dalle mediazioni e gerarchie, per costruire strutture di resistenza, comunità di auto-organizzazione e solidarietà in ogni quartiere, in ogni posto di lavoro, in ogni scuola e università, in ogni prigione. Non dobbiamo permettere agli sbirri, ai fascisti, giornalisti, spie ed ogni sorta di lacché di svolgere il loro lavoro indisturbati. Dobbiamo ricambiare in ogni modo possibile la violenza che quotidianamente inaspriscono contro le nostre vite. Non dobbiamo permettere a quello che ci divora che diventi pienamente sazio. Solidarietà, auto-organizzazione, anarchia. E questo era il testo che poi dopo la diretta potete anche ritrovare sul sito di Radioazione. Lo ricordo, non c'è ancora proprio perché è arrivata proprio pochi minuti prima della diretta, quindi per chi è interessato a rileggerlo, non ci ha capito un cazzo durante la mia lettura, può farlo dopo la diretta di Radioazione di questa sera. Ora ci ascoltiamo un paio di brani brevi, uno è di Divo, l'altro lo sceglieremo ora mentre ascoltiamo i Divo, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Yeah. Il secondo brano che abbiamo scelto in corsa erano i 7-Up, un po' come la bibita di tanto tempo fa, dagli anni 80, la 7-Up, ma loro ci hanno cantato invece Imposter. Torniamo al mercato della carne di Curaçao e assistiamo ad una vendita di carne. L'asiento, che prendeva il nome da un accordo sul commercio di schiavi firmato dalla corona olandese un secolo e mezzo prima, fu facile da individuare. Sorgeva presso il porto, ai bordi di un'area chiamata Schottegat. In uno spiazzo sovraffollato e polveroso, una marea di gente si accalcava sotto le tende che riparavano la piazza dal sole. All'ancora, nella baia confinante, galleggiavano le ultime navi negriere approdate a Curaçao. 3 galeoni genovesi e 2 spagnoli. In realtà sarebbe Genova ad avere da contratto il monopolio degli schiavi, spiegò De Lussan, però qui il commercio è in crisi e anche le navi provenienti dalla Spagna sono le benvenute malgrado l'ostilità con l'Olanda. I genovesi non si pongono problemi, più navi approdano qui, meglio è per tutti. Gli spettatori gremivano le adiacenze dei palchi su cui gli schiavi, nudi e spaventati, erano fatti salire. Non scendevano direttamente dai velieri che li avevano trasportati fin lì, giungevano invece da piantagioni che fungevano da campi di raccolta e, in certa misura, di addestramento. Là, prima di essere messi al lavoro nelle coltivazioni di canna da zucchero, erano stati visitati dai medici e affidati a istruttori incaricati di domarli e di rendere obbedienti più riottiosi. Lo schiavo che giungeva a Schottegat era merce affidabile, ormai avvezza a servire e produrre. I genovesi si adattavano pazientemente a quella trafila e attendevano senza fretta che il giorno della vendita arrivasse. L'efficienza olandese superava quella spagnola a Cuba e quella inglese in Giamaica. Era raro a Curaçao vedere esemplari malati o in condizioni fisiche mediocri. La selezione avveniva a monte. Per i filibustieri fu facile scorgere il governatore dell'isola. Obeso e apoplettico, sedeva su una poltrona sistemata in prima fila apposta per lui, circondato da un nugolo di nobili e da qualche soldato. Il doppio mento spuntava dalle trine, fra i boccoli della parrucca incipriata. Si faceva vento. Quando uno schiavo lo interessava, chiudeva di scatto il ventaglio e lo puntava. Uno dei suoi domestici andava allora a informarsi sul prezzo. Comperava poco, però negri di qualità. Soprattutto bambini e bambine, normalmente venduti a buon mercato perché non si sapeva quanto sarebbero sopravvissuti. De Lussan si fece strada fino al gentiluomo. «Buongiorno, eccellenza!» disse in inglese, certo che l'altro conoscesse la lingua. «Noi apparteniamo alla flotta del capitano Laurent de Graaf, un vostro compatriota che combatte sotto i colori della Francia e desideriamo conferire con voi». Due soldati fecero per abbassare i loro moschetti, ma il governatore li fermò con un gesto. Aveva occhi piccoli e verdi, che definire gelidi era poco, affondati nella carne. Il suo faccione, coperto di cipria quanto la parrucca, nascondeva sotto baffi e barba labbra rosse e carnose che facevano pensare a grandi appetiti. Tuttavia l'espressione dell'obeso non era stolida, tutt'altro. «Ed ecco qua, i famosi pirati della Tortuga», rispose in perfetto francese. «Tanto famosi che Luigi XIV non vede l'ora di sbarazzarsene, figuratevi io!» De Lussan non si scompose. «Ah, io non ne vedo il motivo, monsieur. Siamo venuti in pace e in amicizia, vogliamo solo commerciare e acquistare nuovi alberi per le nostre navi, nonché trattenerci il tempo necessario alle transazioni del caso. In pace e in amicizia!» L'olandese ridacchiò subito, invitato dai suoi nobili. «Una sola notte a Curaçao e ho già notizia di due giovani serve stuprate, di una rissa con ferite e di un tentato omicidio. Avete scaricato a punta una masnada di idioti degenerati. Persino un aristocratico è stato preso per il codino e fatto cadere in presenza della moglie e della figlia. La cittadinanza esige che siate allontanati al più presto e io personalmente sono d'accordo.» «Ecco cosa aveva fatto l'equipaggio nella notte», pensò Ruggero. De Lussan fece un inchino. «Se è accaduto tutto ciò mi dispiace sinceramente, signor governatore. Sapete meglio di me che è difficile controllare una ciurma scesa a terra dopo mesi di navigazione, ma io sono pronto a garantire a nome del capitano De Graaf un congruo risarcimento a chiunque abbia subito danni materiali e morali. Non mi basta!» Strillò il governatore, ora seriamente collerico. Gli caddero dalle guance che si stavano arrossando interi strati di cipria. Gesticolò anche, per quanto glielo consentivano le braccia cortissime e i ricami d'oro che gli rigidivano le maniche. Pochi mesi fa due navi olandesi sono state assalite dai bucanieri al largo dell'Havana. «Poteva trattarsi di bucanieri veri e propri», osservò De Lussan compito. «Molti filibustieri inglesi ignorano le alleanze e si dedicano ad ogni tipo di rapina. Meglio loro che la feccia che avete scaricato nella mia città. Risarcite le sue vittime, dite. Ebbene, chi risarcirà a me? Quali danni sta subendo il mio onore?» Ruggero capì l'antifona, ma De Lussan fu ancora più pronto. «Signor governatore, noi non pretendiamo di soggiornare gratis fra i buoni cittadini di Curaçao. Siamo qui per commerciare, vi ho detto. Siamo anche disposti a pagare un piccolo pedaggio per avere il tempo della nostra sosta. Diteci quanto chiedete a titolo di spese per il disturbo e faremo il possibile per provvedere.» Il gentiluomo smise all'istante di strillare, riflette un poco, quindi strinse gli occhi già piccoli di loro. Le sopracciglia corte erano poco più che due ombre. «Io direi che 3 pezzi da 8 per ogni uomo sceso a terra sarebbero sufficienti. Mi sembra equo, considerate le ruberie che i fratelli della costa hanno fatto sulle nostre navi a Havana. E poi, se avete degli schiavi, li voglio tutti. Voi avete rubato i nostri, io voglio i vostri.» La moneta di cui parlava il governatore, il pezzo da 8, era spagnola. Si commerciava anche in scudi, fiorini e jacobi. Tuttavia, dato che i 2/3 delle navi depredate nel Mar dei Caraibi erano spagnole, la valuta corrente negli arcipelaghi era quella iberica. De Lussan scosse il capo. «Se volete i nostri schiavi, la tariffa per il soggiorno deve calare. Non siamo disposti a pagare più di 2 pezzi da 8 per ogni ospite dell'isola proveniente dalle nostre navi. La mia tariffa includeva anche le scialuppe per trasportare le alberature e le altre merci che intendete comperare. Ricordate che dovete attraversare il lago sotto la fortezza.» «Possiamo farlo con la nostra flotta.» «Ma io vi abbatterei a colpi di cannone. Avete esasperato i miei concittadini, non accetterebbero di veder sfilare sotto il naso sotto i loro occhi un'intera flotta di pirati, col mio consenso.» De Lussana rifletté brevemente. «Signore, vi propongo un compromesso: 2 pezzi da 8 per ogni marinaio a terra per una settimana, tutti i nostri schiavi maschi, del resto le donne sono pochissime, e in cambio le vostre scialuppe per attraversare il lago e trasportare la mercanzia.» L'olandese inarcò uno dei suoi esili sopraccigli. «Ah, mon ami, non so nemmeno chi siate, però di faccia tosta ne avete da vendere. Qui abbiamo uomini, navi, forti e cannoni. vi possiamo colare a picco in un istante. So bene dove siete ormeggiati. Oh, non ne dubito, de Luzzano abbozzò l'ennesimo inchino. La sua voce suonò dura e cortese. Nemmeno io riesco a pronunciare il vostro nome, è troppo complicato per me. Tuttavia sono capace di scandire bene il nomignolo del mio capitano, Lorenzillo, colui che ha preso Veracruz, creduta invulnerabile, e ne ha fatto terra bruciata. Ciò che non ha compiuto De Graff lo può compiere il capitano De Gramont, il suo maestro. E dove approda, lascia fiamme e distruzione. Il governatore di Curaçao fu scosso da un brivido palese. De Gramont? De Gramont è qua! Non lo sapevo! Perché nessuno mi informa? Piagnuculò, guardandosi attorno. Non è ancora sull'isola, ma sta arrivando. La voce di Lussana assunse le cadenze macrabe di un dies irae. Sia o non sia presente, le condizioni rimangono uguali. 2 pezzi da 8 a cranio per permanere. Non più di una settimana. E schiavi negri di sesso maschile in cambio del numero sufficiente di scialuppe. De Lussan porse la pipa vuota. Aggiungo abbastanza tabacco da riempirmi il fornello. Rogerio fu sollevato all'udire che De Lussan parlava solo di schiavi maschi. La gente attorno aveva fatto capannello, però non aveva inteso una parola della conversazione. Lì si parlava una strana lingua autoctona, oppure olandese, tedesco, inglese, il più raro italiano dei naviganti genovesi. Tutti mostrarono soddisfazione quando il governatore e De Lussan si strinsero la mano a suggellare il patto. Vi fu perfino chi applaudì, ma senza sapere cosa. Come odio i coloniali, di qualsiasi nazionalità siano, commentò il chirurgo mentre lui e Rogerio tornavano sui loro passi. Pretenziosi quanto i loro simili lasciati in patria, tuttavia più avidi e senza un passato in qualche modo glorioso alle spalle. Ma la venalità dovrebbe rientrare tra gli appetiti animali che di continuo attribuiti agli uomini, osservò Rogerio con intenzione ironica. Quel governatore risponde al vostro modello. Ah oui, ma non è il modello ideale. L'uomo superiore bada al potere, non alle ricchezze transitorie. È crudele perché gli piace la crudeltà a prescindere dai fini. De Lussan si interruppe. A proposito di bestie, ecco là i nostri uomini, tanto poltroni che sono arrivati all'appuntamento con 2 ore e passa di ritardo. Alludeva ai pirati che si assiepavano nella piazza di fronte alla cattedrale al riparo dei portici delle case variopinte. Il morso del sole era intollerabile, attenuato appena da fugaci brezze provenienti dal mare. De Lussano individuò Tuan che si incamminò verso di lui. Intanto con un fazzoletto cercava di tamponare i rivoli di sudore che gli scorrevano lungo la nuca. L'accordo è fatto, possiamo rimanere, ci daranno delle scialuppe per andare a commerciare all'interno, ma gli uomini del Conquiror ne hanno combinate di tutti i colori stanotte. Tuan alzò le braccia e abbozzò un sorriso. E beh, erano in mare da mesi, per di più ubriachi, impossibile, direi, tenerli sotto controllo. Che non si ripeta. Ogni marinaio ci costa una bella cifra. Sarete ritenuto responsabile di ogni eventuale eccesso. D'accordo. Truan preferì cambiare argomento. Tornate da Lorenzillo, signor dottore? Certo, è ovvio. I patti che ho stretto devono avere il suo consenso. Sono certo che capirà che non ci sono alternative. Voi sistematevi qui e tenete a bada la masnada. De Lussan incurvò le labbra in un sorriso feroce. Sapete che cosa vi farò se ci saranno altri incidenti? Truan impallidì e scosse il capo. Io vi opererò, disse il chirurgo. Un'operazione lenta, di quelle che piacciono a me, con sega, pinze e tenaglie. Cose che durano ore, ma fanno un gran bene al paziente. Truan arretrò e con lui il resto della ciurma. De Lussan afferrò Rogerio sotto braccio e vi si allontanò. Si volse per un ultimo ghigno. Truan, di cosa vi lamentate? Io penso solo alla vostra salute. Il chirurgo e il portoghese raggiunsero i margini della città e si inoltrarono nelle campagne brulle, dirette a Santa Barbara. Lo spettacolo del mare ipnotizzava, ma il sole ardeva e ogni passo costava fatica. Fu Rogerio, ansimante per il calore e così sudato da essere zuppo, il primo a riprendere la parola. Io trovo disgustoso il commercio degli schiavi che si fa a Curaçao. Ho visto in vendita bimbi di pochi mesi. Lo trovate disgustoso? Allora ringraziate il vescovo Bartolomé de las Casas e gli umanitari come lui. Beh, cosa c'entra? De las Casas, protestò Rogerio indignato. È stato il primo a denunziare i supplizi inflitti agli indigeni americani. Ah, sì, ma è stato anche il primo a proporre in alternativa al commercio degli indigeni l'importazione di nigri dall'Africa. Il Vaticano e i regni d'Europa l'hanno preso in parola e hanno legittimato il commercio di carne nera. I musulmani procurano la merce sulle coste dell'Africa, qui gli ebrei la mettono all'incanto, cristiani vari benedicono il traffico. Sapete qual è la forza dei pirati? No, rispose Rogerio, evitare queste ipocrisie. Vogliamo denaro fuori da ogni regola, arraffiamo di tutto e vendiamo di tutto, uomini inclusi, noi siamo il futuro e nessuno ci fermerà. On the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. E allora, dopo l'ennesima lettura di Tortuga, si ripassa con la controinformazione. Sono un paio di settimane che ormai si fa il ping pong tra Cile e Grecia, ma le notizie di controinformazione arrivano solo da quelle zone, e quindi noi continuiamo a leggerle. Ora quindi si torna in Cile, nello specifico a Santiago, dove c'è stata un'ennesima barricata di fuoco di fronte al commissariato di Pudahuel. Leggiamo il testo rivendicativo. Siamo molto feriti e rabbiosi che con la fine dei corsi universitari sono finite con essi anche le azioni di strada. È una ferita e una rabbia che l'azione va in vacanza, di qualsiasi forma di agitazione, non solo incendiaria. Questo riduce totalmente l'intensità nella prassi anarchica. Ecco perché chiamiamo i nostri compagni anarchici ad abbandonare l'immobilismo. Lo facciamo chiamando alla coordinazione tra fini per realizzare azioni di tutti i tipi e mettere da parte quella spontaneità che lascia molto a desiderare. Ecco perché, armati di pneumatici, con quattro bombolette di gas butano, il fuoco e obuscoli, abbiamo deciso di fare un blocco su Calle Tenente Cruz, di fronte alla stazione di polizia Pudahuel 26, per far capire a quei bastardi che siamo lì e che l'azione coordinata ha la chiave per il successo. Dopo che il fuoco si è espanso, ci siamo rapidamente rifugiati fino al nostro posto di sicurezza, lasciando di merda i bastardi vedere una barricata davanti ai loro volti. Le bombole hanno fatto il loro lavoro, cosa che li ha allertati e li ha fatti decidere di andare alla nostra ricerca come dei pazzi, con il suono delle loro sirene per il quartiere, senza nessun successo. Questo piccolo gesto è dedicato con amore a José Miguel Sánchez. Speriamo con ansia alla tua liberazione, in modo che ci puoi accompagnare in questa lotta contro il potere e lo Stato capitale. Salutiamo affettivamente Hans Niemeyer. Fratello, noi non dimentichiamo, speriamo che questo gesto rompa l'isolamento della prigione sporca e ti auguriamo resistenza, anche se sappiamo che ne hai abbastanza. Abbracci, compagno. Ricordiamo inoltre che in questo commissariato portarono i nostri compagni Hermes Gonzalez e Alfonso Avial, dopo essere stati arrestati per la rapina al Banco Estado in cui fu ucciso il nostro fratello Sebastiano Veslucci. Allora un grande abbraccio e saluto complice per il loro coraggio di agire, e al nostro Sebastian con amore e rispetto per la sua vita dedicata alla lotta anarchica. Poi c'è una nota, un saluto alla polizia bastarda che vigilava dalla sua cabina di sicurezza della stazione di polizia. Speriamo che piacevolmente che i cani che vi tengono a guinzaglio vi hanno ricompensati per il vostro lavoro efficace, per averli allertati del fuoco che avevano nelle loro narici. Stupidi! Poi il testo finisce con degli slogan: Sebastiano Veslucci presente, libertà dei prigionieri della guerra sociale, il capitalismo non si ferma, tantomeno noi, moltiplichiamo gli attacchi contro lo Stato capitale, cellula incendiaria Sebastiano Veslucci. E questo era il testo di controinformazione che, per quanto riguarda questa ennesima barricata fatta in Cile. È una pratica molto frequente in Cile, quella di scendere per strada all'improvviso, fare queste improvvisate, prendere dei copertoni, dei pneumatici, bruciarli e poi andare via. Tanto di cappello ai compagni che hanno trovato anche questa forma, che comunque va a rompere un attimo un certo equilibrio di pace sociale all'interno schemi delle metropoli, quindi anche quando non ci sono i grandi serpentoni di gente nelle capitali. Sì. E allora, questa era la notizia che ci arrivava da Santiago del Cile. Ora ci ascoltiamo un altro brano, sono The Fall con il brano Totally Wired, e poi dopo si ritorna qui e si ritorna con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. I'm totally Il 27 gennaio 1685 i pirati furono costretti a salpare le ancore e a prendere il largo, lasciando Curaçao. Davanti erano i brigantini a tre alberi, il Neptune e il Mutin. Dietro venivano sloop e corvette, con qualche rinforzo giunto durante la sosta sull'isola. Si trattava dell'imbarcazione dei capitani Blas Michel, Lagarde e Lawrence, quest'ultimo un inglese della Giamaica che a volte faceva scalo alla tortuga. Velieri a due alberi, come gli altri, sovraffollati e formicolanti di uomini alle manovre. Era incipiente una tempesta e questo aveva suggerito una partenza rapida. «Virato a picco pieno, capitano!» annunciò Calloa. «Non è facile con il mare così grosso!» Rogerio, appena salito sulla tolda per il suo turno di 4 ore, notò che Lorenzillo pensava a tutt'altro. Masticava tabacco e ogni tanto ne sputava pezzi catarrosi oltre l'impavesata o sulla tolda, con rabbia. «Maledetti olandesi!» De Graaf pareva aver dimenticato di essere olandese pure lui. «Ci hanno cacciato con ignominia dalla città, ma chi si credono di essere? Quasi quasi! Torno indietro e metto Curaçao a ferro e fuoco!» «Ma non prendetevela, capitano!» rispose Calloa. «I commerci che avevamo in mente li abbiamo fatti, le nostre navi hanno alberi nuovi e robusti. Purtroppo per 4 giorni consecutivi le ciurme hanno imperversato fuori controllo, non bisognava farle sbarcare!» Ma Lorenzillo era incontenibile. «Ma porco d'un demonio, quei signorini olandesi nelle loro casupole dipinte, cosa tengono taverne e bordelli a fare per accogliervi gentiluomini e servire loro il tè?» Calloa si strinse nelle spalle. «Beh, forse non hanno apprezzato 2 omicidi e almeno 9 violenze carnali, di cui una ai danni di una signora dell'aristocrazia. Ebbene, il governatore lo abbiamo pagato profumatamente. I cittadini però no, se restavamo là ci accoppavano tutti.» Calloa preferì cambiare argomento. «Capitano, la tempesta è quasi su di noi, quali sono gli ordini?» Lorenzillo allora tornò immediatamente calmo. «Virare e lasciare spiegare le gabbie, forza di vele!» «E l'ancora?» «Sarà la stessa nave a spredarla. Adesso è urgente sciogliere i terzaruoli, poi bordare le scotte e distenderle.» L'ordine fu trasmesso e comunicato agli altri velieri della flotta. Rogerio si trovò su un pennone di maestra ad alare la mura. L'enorme vela si spiegò crepitando e il Neptune prese il volo. La prua si alzava e si abbassava, fiumi d'acqua entravano nelle cubie, i cannoni rigettavano liquido salato, si navigò di bolina stretta e il tagliamare fendette onde enormi. Tuttavia, in breve, le nuvole nere e l'uragano che contenevano furono alle spalle, con essi Curaçao, la città dei negrieri. Rogerio, appena sceso da una grisella, udì Lorenzillo commentare: «Che crepi sotto le saette la fottuta Curaçao! Se ci tornerò sarà solo per saccheggiarla come si deve!» Calloa nella chiesola stava osservando la bussola col timoniere. «A buone mura!» obiettò. «Ecco ciò!» Anche Veracruz aveva buone mura e un forte imprendibile prima che De Gramona assaltasse la città per gli edifici posteriori. «Io, Laurent De Graaf, giuro che raderò al suolo ogni abitato che sorga in questi mari!» «Calloa, qual è?» «Il centro più protetto. Campeche, monsieur.» «Forse. Sta in Messico, è stato assalito molte volte negli ultimi decenni e adesso si sta fortificando.» «Ebbene, dopo una sosta alla Tortuga la prossima preda è Campeche, seguirà Curaçao, ma solo dopo che avrò visto capitolare il porto meno accessibile del Mar dei Caraibi, che le bicocche degli olandesi siano una sola tinta, rosso sangue.» Dopo essersi sfogato a parole, Lorenzillo tornava quieto e fu così anche per il mare. Lasciati a poppa le nuvole più scuro, furono imbrogliate e serrate le vele maggiori e terzarolata la contromezzana. Al largo, bracciati pennoni in croce, Rogerio udì finalmente la campana che segnava la fine del suo turno. Ma invece di scendere negli alloggiamenti dell'equipaggio dove stava smontando la squadra dei gabbieri, si diresse al boccaporto di prua. Le Bon lo intercettò, la pipa puntata come una pistola. «Sbaglio, mon ami, o vuoi scendere nel gavone a parlare con la tua bella?» Rogerio decise di non mentire. Proprio così, voglio vedere la schiava. E sei sicuro che non sia stata venduta a Curaçao? Lorenzillo ha ceduto al governatore tutti gli altri, lei no. Le Bon si fece da parte. E allora passa, testardo d'un gesuita. Ricorda però che è proprietà altrui e che lo stesso capitano, te lo rivelerò in confidenza, non ha rinunciato al progetto di regalarla a De Grammont. Ma adesso vai e parla piano. Se qualcuno mi chiederà di te, io dirò che non ti ho visto. Con muta gratitudine Rogerio scese dalla biscaglina che da prora conduceva ai ponti inferiori, attraversò l'ambiente impregnato d'acqua che occupavano Filù e Tapì. I due ragazzini venivano da un po' di tempo lasciati in pace, dato che i pirati si erano sfogati a Curaçao su femmine vere e i giovani, pertanto, non erano costretti a barricarsi. Il gavone degli schiavi era al momento vuoto, unica ospite l'africana senza nome, liberata dalle catene. Qualcuno l'aveva vestita di una specie di tunica, segno che per lei si usavano riguardi particolari. Se ne stava in piedi, a testa bassa, le braccia incrociate sul petto. Camminava su e giù, cercando di scansare gli escrementi, forse in prevalenza suoi. All'arrivo di Rogerio trasalì e si addossò alla parete più vicina. Lui fu ancora una volta sedotto dai lineamenti incantevoli della giovane donna. L'avvicinò quasi con pudore. «Certo, ti ricordi di me, per te io mi sono addirittura battuto. Il mio nome è Rogerio de Campos, e il tuo?» La ragazza lo contemplò. Appariva un poco spaventata, ma non troppo. Il fatto era che non lo capiva. Rogerio le prese le mani, che lei cedette senza resistenza, e le premette contro il petto, avvicinò le labbra a quelle di lei e le sussurrò: «Io mi chiamo Rogerio, ti ripeto, e tu come ti chiami?» Ne ebbe in cambio un'occhiata stolida e uno stupore nel capo. Quasi in contemporanea, sulla tonda del Neptune la campana suonò. I tamburi dell'orchestrina presero a battere un ritmo da battaglia. Lo scafo fu scosso, vibrava per i passi dei marinai chiamati in coperta. Rogerio prese il viso gentile della schiava per il mento e lo trasse a sé. Lei serrò le labbra e si torse fino a liberarsi dalla sua stretta. Il portoghese la fissò con rammarico. «È così che mi contraccambi! Peggio per te! Goditi Pepe Canseco, il tuo nuovo padrone!» Un attimo dopo Rogerio si pentì di quelle parole, carazzò le guance della ragazza e si perse nei suoi occhi neri e umidi da cerbiatta. «Ti prego di scusarmi, cercherò di strapparti a Pepe il fatto io che mi sento come... Ma no, tanto vale dirlo apertamente, io ti amo e ti porterò via di qui, ti libererò!» L'empito di Rogerio ebbe in cambio uno sguardo perplesso e vagamente incuriosito. Intanto sulla tolda i tamburi seguitavano a rullare, la campana a battere rintocchi, il portoghese carezzò i capelli crespi della sua bella. «Io mi batterò per te, piccola mia, se c'è da combattere, se cadrò... La mia vita ti sarà dedicata.» La risposta fu un meravigliato battere di ciglia. Rogerio si precipitò di sopra, come aveva immaginato. Navi nemiche erano in vista, due addirittura, fregate dallo scafo basso e zeppe di cannoni. Sul Neptune e sul Mutin la Jolie Rouge era già alzata. Lorenzillo, dall'alto del cassero di poppa, arringava gli uomini. «E dunque, non c'è tempo per virare di bordo né modo per abbordare. La partita la si deciderà coi cannoni. Loro ne hanno di più, però noi siamo più rapidi e numerosi. Voglio una gragnola di palle contro le fiancate di quelle bagnarole. L'ordine si è trasmesso al resto della flotta. E ora, gli artiglieri ai pezzi!» Gli interessati corsero di sotto. Al corridoio delle bocche da fuoco, due mozzi portarono barilotti di polvere rimasti in coperta. Si udì il cigolio delle ruote dei cannoni sottratti ai portelli da cui sporgevano per essere caricati. Anche l'altro brigantino, gli sloop e le corvette si predisposero alla battaglia. I tamburini picchiavano con foga sui loro strumenti. Il Neptune, in momenti come quelli, pareva sovraffollato al punto che non si capiva come facesse a navigare. Furono messe fuori le aste dei coltellacci. Al comando di Calloa, Rogerio salì sui pennoni con i gabbieri. I controvelacci erano serrati e spiegati di continuo a seconda del vento. Una massa di uomini seguiva al limite delle possibilità umane. Il portoghese, schiaffeggiato dalle folate, provò fra tanta sofferenza un moto d'orgoglio. Per la prima volta si sentiva parte di una razza fuori del comune, adusa all'odore inebriante del mare, ammassata su scafi leggeri pronti a seminare morte, un'elite libera e virile che mai avrebbe tollerato liberi limiti al proprio arbitrio e alla propria potenza. L'idea di Lorenzillo era di bordare al fianco di una delle navi nemiche e di sparare per primo, per poi veleggiare rapido e sottrarsi alla risposta. Trepidava nel vedere gli addetti ai cannoni girevoli puntare il pezzo, i bucanieri fissare i fucili pesantissimi sui treppiedi, la miccia accesa stretta fra i denti. Un ponte più sotto, l'artiglieria pesante era ormai in posizione di tiro. Di sicuro per Lorenzillo fu una amara sorpresa udire ciò che si gli sussurrava Calloa. Rogerio, appena sceso da una coffa, poté sentirlo chiaramente. «Guardate, capitano! Le due fregate stanno issando la bandiera. È quella francese!» «Ah, io non mi fido! Siamo pronti alla battaglia, che battaglia sia! Contro la Francia! Come mai torneremo alla Tortuga e il governatore ci ricaccerebbe a calci, tal quale quello di Curaçao? La nostra gente è stanca di stare in mare, vuole riposo, famiglia, bambini, oppure puttane conosciute, quelle di casa nostra!» Lorenzillo allora guardò Calloa con vero odio. «Chi ci dice che la bandiera francese sia una garanzia? Noi inalberiamo vessili di tutti i tipi!» «È vero, però mi è parso di scorgere un vecchio amico di Saint-Malo, più un grassone che commercia ai negri da un decennio almeno.» Calloa portò la mano al petto. «Credetemi, capitano, sono francesi. Notate che non hanno ancora aperto il fuoco.» «E va bene, ma vi farete carico voi, Calloa, delle responsabilità individuali.» Lorenzillo formulò l'ordine che Calloa trasmise all'equipaggio. «Si rallenta l'andatura e non si spara, pare che siano fregate amiche. Chi ha i cannoni vi resti, non si sa mai.» Rogerio non bestemmiava ma imprecò. Si trattava di serrare le vele a prezzo di enorme fatica e di far procedere il brigantino con calma. Si inerpicò sul trinchetto e ogni giuntura gli doleva. Di lì a poco si sarebbe scoperto se le due fregate erano francesi per davvero. I tamburi rallentarono il ritmo e poi smisero lentamente di battere. Si udì solo il fragore delle onde che, aggressive, si spezzavano sulle chiglie e morivano in schiuma. People from the roof, I do. E allora, per quanto riguarda la lettura di Tortuga, per oggi finisce qui. Invece noi diamo un'ultima notizia di controinformazione prima di terminare la diretta d'azione di oggi, lunedì 10 febbraio. Due brevi notizie. Una riguarda Pau in Francia, dove è stata attaccata la Church of Christ Scientist. Leggiamo il comunicato. GADI, International Direct Action Group, rivendica l'attentato incendiario alla Church of Christ Scientist a Pau, in Francia, nelle prime ore dell'8 febbraio 2014, che serve di solito da base di rifugio per i fascisti del Fronte Nazionale, FN. Dai primi anni 90 fino ad oggi, circa un centinaio di persone sono state assassinate per mano di gruppi fasciste. Noi non dimentichiamo l'ultimo incidente con Clément Maric, il giovane attivista ucciso il 5 giugno 2013 a Parigi. Dobbiamo porre fine alla repressione fascista, non dobbiamo dimenticare il genocidio prodotto in tutta Europa dal fascismo, che ora riemerge per continuare la sua tradizione di morte, razzismo e distruzione. E poi il testo finisce con uno slogan: morte al fascismo e i suoi simboli. La firma sta all'inizio, è praticamente GADI, International Direct Action Group. Invece l'altra notizia breve è che finalmente, dopo tanto tempo, c'è una data del processo per il caso Security. Quindi i compagni detenuti per il caso Security, Juan Alice in Vega, Freddy Fentavilla e Marcella Villareal, imputati per questo caso, ricordiamo che rischiano pene che vanno dai 18 anni di carcere all'ergastolo per diverse rapine in banca e la morte dello sbirro Moiano nell'ottobre 2007. Quindi dal 25 marzo ci sarà la prima udienza. I compagni approfittano di questa informazione per ricordare che, indipendentemente dallo scenario in cui la nostra lotta si sviluppa, allungando la mano dei nostri compagni e fratelli sarà sempre un'opzione per trovare l'affinità, decidendo di intervenire in questa guerra per la liberazione totale. Di fronte al nemico, libertà per Freddy, Juan e Marcello, finché vi è miseria ci sarà ribellione, collettivo anticarcelario, guelo de giustizia. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la diretta d'azione di oggi. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che è per venerdì prossimo, che ci sarà la controinformazione e una sorpresa che non sveleremo. Uber Rushing. Quindi sorpresa per venerdì, per la diretta d'azione di venerdì. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: la mail radiazione@distici.org per mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato o materiale che volete distribuire liberamente e free download sul sito di radiazione, dove potete darci qualche consiglio sui libri da leggere il lunedì, criticare quello che stiamo leggendo. Siamo aperti a tutto, fatelo tramite mail, oramai non ci sono più chat, quindi solo tramite mail si può fare. Invece per il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, riascoltare le dirette d'azione, scaricarvi libri, opuscoli e quant'altro trovate nella sezione download. Per la radio, cliccate sul banner il giorno della diretta, il lunedì o il venerdì, che trovate sempre sullo sito di radiazione, oppure accendete il lettore che si trova sulla sidebar a sinistra e ascoltate la diretta, lo ricordo, il lunedì con controinformazione, lettura e musica, il venerdì con controinformazione e musica, ma venerdì prossimo la sorpresa. Quindi appuntamento a venerdì prossimo, solito orario alle 17. Vi lascio con un brano di The Take, con il brano Summer, e con questo vi dico ciao, e chi si offende è un fedente. We'll be right back. senso di azione in diretta. Radio Azione, Radio Azione, contro informazioni, letture, promozioni, musica. Radio Azione, frequenze di azione in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione.